si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. E buongiorno, buona domenica da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua con Si può fare in diretta, 8:34 minuti, staremo insieme sino alle 11. Se volete interagire con noi in tempo reale, vi ricordo il nostro account su Twitter, è @ si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Siamo anche su Facebook, Si può fare _ Radio 24. Tra poco apriremo anche il numero verde per intervenire in diretta, per commentare tutto quello che sentite come ogni mattina. Ma adesso andiamo subito ad iniziare. The good news! Oh, chiudono le librerie, chiudono i negozi nelle nostre città, continuano ad aprire sale gioco, sale con o bar con dentro videolotteri. Allora viva quando qualche comune incentiva i bar che rinunciano a qualcuna di queste macchinette mangiasoldi. Si chiama gioco, ma non c'è molto da divertirsi. Due iniziative, le ultime due che vi vogliamo segnalare sono queste: Budoni contro le slot machine, 500 euro ai bar che le rimuovono. La strada scelta invece dal comune di Buccinasco è diversa: contro il gioco d'azzardo, TAR dimezzata per i locali no slot dal comune appunto di Buccinasco, una decisione presa tra l'altro dall'amministrazione comunale all'unanimità. Ripetiamo, non è una crociata contro il gioco d'azzardo, ma di fronte alla proliferazione assolutamente assurda e eccessiva di questi anni, credo che sia giusto che un comune sia libero di incentivare quello che vuole. Ripetiamo, chiudono le librerie, chiudono i negozi, chiudono i cinema, e allora magari qualche sala giochi in meno non ci fa male, eh? Andiamo a iniziare col giornale. E allora non possiamo che iniziare con la Gazzetta dello Sport. È ovvio, tutti avranno fatto le due di notte a vedere l'Italia, quasi tutti. Soddisfazione per questa vittoria, balo e vai, scrive la Gazzetta dello Sport, e subito Grande Italia, bye bye Inghilterra. Super Mario firma il gol decisivo e lo dedica alla futura moglie Fanny. Gara durissima, apre Marchisio, replica Sturridge, questo folletto che non si fermava mai, e alla fine vince il nostro possesso di palla. Colpiamo due pali, un palo e una traversa. In realtà brillano anche Darmian, Candreva, Sirigu e Pirlo. Finalmente Mario, scrive la Gazzetta, non è un hashtag, è un urlo da sala parto. È nato il Balotelli che aspettavamo da sempre, quello che nella notte più importante segna, trascina, sgobba, non dice una parola all'arbitro, e poi un'incornata di Mario stende l'Inghilterra e ci lancia in testa al girone, al fianco della sorprendente Costa Rica. Primo vantaggio di Marchisio, cucinato da una magia di Pirlo che due anni fa aveva servito un cucchiaio di fiele all'Inghilterra. Ora si è inventato un tunnel sotto la manica, il riferimento è alla finta che molto bella che ha fatto Pirlo per favorire il tiro di Marchisio, e poi Pirlo che alla fine ha saccheggiato, dice la Gazzetta, la traversa nel finale, perché ci stava quasi per entrare anche il 3-1. E va bene, era giusto cominciare così. Oggi i mondiali vanno avanti, l'Italia inizia col piede giusto. Corriere della Sera, tanto per non dimenticarci dei problemi che abbiamo, che siamo italiani. Tasi, i calcoli per non sbagliare. Domani la scadenza anche per l'IMU, gli ultimi controlli, il groviglio delle tasse sulla casa, e poi la notizia per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione, permessi sindacali dimezzati, l'ira di CGIL, CISL e UIL. Questo è il titolo principale del Corriere, che poi però si occupa anche di quest'altra notizia: si rovesciano i gommoni carichi di migranti, l'Europa resta a guardare, 10 corpi di migranti recuperati e una quarantina dispersi, il bilancio della nuova tragedia del mare avvenuta venerdì pomeriggio, 40 miglia a nord delle coste libiche dove sono affondati i gommoni con circa 90 persone, i 39 sopravvissuti sono stati trasportati su una nave militare che oggi sbarca a Palermo con un totale di 700 migranti salvati. Alfano dice: l'Italia non può farsi carico del disastro creato in Libia dagli altri paesi occidentali. A proposito di situazione della Libia e di situazioni internazionali, l'Iraq, l'Iran tende la mano agli Stati Uniti, scrive Repubblica, uno dei titoli principali, alleati in Iraq contro i jihadisti. poiché nella storia c'è sempre una canaglia più canaglia delle altre, così Vittorio Zucconi, e un Satana più grande di un altro, Iran e Stati Uniti fanno prove di impensabili alleanze a distanza per impedire che Baghdad e l'Iraq cadano nelle mani dei fanatici jihadisti sunniti. Chi l'avrebbe detto anche solo 2 anni fa o 1 anno fa una cosa del genere? Già che ci siamo su Repubblica, il titolo principale è questo: PD e corruzione, Renzi chissà vada dai PM. Il grido così, diciamo, di denuncia, d'allarme, lanciato ieri all'Assemblea Nazionale del PD da segretario del PD e presidente del Consiglio Renzi. Chi ha delle notizie vada dai PM, non aspettiamo che siano i magistrati a fare, insomma, i conti in tasca, a indagare sul partito. La felicità di Felice Casson, appunto, ex magistrato veneziano, da sempre un po' un dissidente del Partito Democratico su questi temi della giustizia, un duro e puro, insomma, plaude a queste parole di Renzi. C'è l'intervista su Repubblica, dice: sì all'appello contro le tangenti, un po' mi meraviglia, un po' mi fa piacere, è sempre stato considerato una specie di spione chi parla con i magistrati, invece giudico positivo questo richiamo perché fa appello ad un senso civico che si era perso. Così Casson. Tornando invece sul Corriere, altre due interviste, una a Fassina che non è molto contento, si è astenuto ieri, una cosa interna al PD, al voto sul presidente Orfini, bravo ma avrei preferito una scelta che rappresentasse tutti, perché avrei preferito un amministratore locale, qualcuno che rappresentava tutti, dice Fassina, che appunto non è stato l'unico che non ha votato ieri il Orfini, presidente, nuovo presidente del PD. Vabbè, poi c'è anche un giudizio sulla sostituzione di Mineo e Chiti nelle commissioni. È vero che in commissione rischiava di essere un ostacolo alle riforme decise dalla maggioranza del partito, è vero, ammette Fassina pure lui, ma i problemi vanno affrontati sul terreno politico, non con la forza. Va bene, un'altra intervista invece più interessante forse è quella di Matteo Salvini della Lega su questa ipotesi di accordo col PD sulle riforme, perché in effetti è un po' la novità politica di questi giorni. I giornali sono pieni di un imminente accordo sulle riforme tra Lega e Governo. Anche lei conquistato da Renzi? Domanda l'intervistatore a Salvini. Non faccia lo spiritoso, noi siamo all'opposizione. Però anche Calderoli ha detto che c'è in vista un accordo soddisfacente. Se le piace chiamare così quello che sta succedendo, faccia pure. Ma di che cosa stiamo parlando? Di un accordo sulla legge elettorale? No, la legge elettorale non è invotabile, il famoso Italicum. Peggio di così non poteva venire fuori. Quindi l'accordo riguarda la riforma del Senato. Su quella, ammette Salvini, e sulla collegata riforma del titolo quinto, la speranza è una sterzata decisa contro il neocentrismo del governo. Fin qua Renzi, specifica meglio Salvini, voleva riportare tutto allo Stato, a decidere tutto con Roma, noi diciamo di ridistribuire le competenze, oggi concorrenti tra regioni e Stato, con le regioni che si tengono i quattrini per fare il loro lavoro, con la bozza del governo le regioni invece non servivano più. E quindi insomma c'è questa disponibilità della Lega a votare la riforma del Senato, se a fianco c'è questa revisione del titolo quinto di cui si parla e si è provata a farla da anni, ma chissà che sia la volta buona. Un'altra voce è quella del ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia, intervistata dalla Stampa, che intanto titola così: piano scuola al via, pronto 1 miliardo per 20.000 cantieri. Dopo il Consiglio dei Ministri di venerdì, insomma, le notizie stanno arrivando un po' a cascata, e una è questa: subito 1 miliardo per rendere le scuole più belle e più sicure. Il piano del governo prevede oltre 20.000 cantieri per 4 milioni di studenti. Tra il 2015 e il 2020 arriveranno fondi per altri 4 miliardi. Ma dicevamo la Madia, che insomma in questa intervista tira fuori abbastanza le unghie. Riforma difficile, ogni categoria fa la sua resistenza. Prima di tutto parla, diciamo, della resistenza principale, che è quella proprio degli apparati della pubblica amministrazione. Capita che un dipendente chieda di essere trasferito, qua a proposito della mobilità, ma la sua amministrazione tenti di trattenerlo. Con la riforma il trasferimento si può fare, dice la Madia, anche se l'amministrazione non dà il suo non la osta. E va bene. Poi chi si sente colpito sbaglia. Tutte le scelte che abbiamo fatto sono improntate a giustizia, equità sociale, mai a una logica punitiva. Mi sembra corretto che un magistrato amministrativo distaccato in un ministero debba andare fuori ruolo e non possa il giorno dopo decidere della norma che ha scritto il giorno prima. Oppure che chi ha fatto parte di un'authority non possa poi, per almeno 4 anni, lavorare per chi fino a ieri vigilava. Giustissimo. O ancora, che chi è in pensione non possa più lavorare a titolo oneroso per l'amministrazione pubblica. La modernizzazione, dice la Madia, si fa con i giovani. Com'è il rapporto con i sindacati? E qua appunto qualche punzecchiatura. I sindacati fanno opposizione al metodo. Io ho inviato loro un testo di 11 pagine con i principi su cui ci muoviamo, mentre loro vorrebbero concertare ogni comma di ciò che si approva. Quello che mi dispiace è che quando li ho incontrati la cosa su cui si sono scaldati è stato il taglio dei permessi sindacali retribuiti. I partiti si tagliano finanziamento pubblico, anche i sindacati, dice la Madia, devono rendersi conto che c'è una domanda sociale. E questo è il punto, diciamo, no? di dissenso in questo momento maggiore con i sindacati. Tornando sul Corriere, per un'altra notizia, ieri c'è stata a Roma la manifestazione dei ciclisti Velo Love. Oggi c'è questo commento di Maria Laura Rodotà a proposito di un dossier che parla di come si muovono i ciclisti nelle città. Le ciclabili non fanno il ciclista. Nelle nostre città impossibili lo si diventa per disperazione. Non è la ciclabile a fare il ciclista, è la disperazione data dall'inefficienza dei mezzi pubblici, dall'assenza di parcheggi, dal costo della benzina e delle multe, dalla necessità di integrare il movimento nella routine quotidiana. È quanto emerge dal dossier Sviste ciclabili dell'associazione Salva i ciclisti, che propone anche una classifica delle città cicliste. Prime Bolzano, Pesaro e Ferrara. A Brescia, invece, dove pure le piste sono tante, le usa solo il 3% degli abitanti. Poi la svolta, e questo è il punto, la può dare una sola proposta: fissare il limite di velocità nelle aree urbane a 30 km/h. Ed è questo un po' il dibattito di questi mesi sulla mobilità, diciamo, le novità per quanto riguarda la mobilità in città. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci qua, come dicevamo, per andare a curiosare come ogni domenica a quest'ora tra le pagine del domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore. Ritroviamo il curatore responsabile, il direttore Armando Massarenti. Buongiorno. Buongiorno, buona domenica a tutti. Eccoci qua, Armando. Una madre in una nuvola di fumo, questo è il titolo oggi della vostra copertina, ma naturalmente ti lascio ampio spazio per spaziare da tutte le proposte di questo vero e proprio giornale nel giornale che è il domenicale. Beh, la copertina è un racconto di un autore molto importante, molto famoso, Michael Cunningham, che il cui più noto romanzo è Le ore, che era dedicato a Virginia Woolf, da cui è stato tratto anche un film molto bello che probabilmente tutti ricorderemo, come per la protagonista Meryl Streep e Nicole Kidman e Julianne Moore pure, cioè quindi tre grandi attrici che avevano fatto questo film. Questo è un romanzo, questo è un racconto che anticipa ciò che lui dirà, lo verrà letto da Michael Cunningham durante la Milanesiana, che quest'anno è dedicata al tema della fortuna e del destino. La letteratura, la fortuna e il destino, la Milanesiana diretta da Elisabetta Sgarbi, ha tantissimi importanti scrittori, ma non solo. Ecco, la Milanesiana ha un po' le caratteristiche che ha anche il domenicale, quelle di intrecciare la letteratura con gli altri saperi, con la filosofia, con la scienza, con l'arte, con la musica, no? Quindi queste serate sono sempre molto composite, molto intrecciate con tutti questi vari saperi. Questo è un racconto molto poetico, molto bello, sull'idea di destino, e la madre è proprio ciò che l'idea di madre è il riferimento a cui si fa in questo racconto in continuazione, è quello appunto della massima espressione appunto di quello che può essere un destino. Però non è l'unico racconto che abbiamo in questo numero, chiudiamo anche con un racconto di uno scrittore di gialli che è Maurizio De Giovanni, che siamo in tema di mondiali, ci parla della storia di un calciatore, di un bambino, ma anche qui c'è il destino, c'è un calciatore predestinato, Pelusa, e sono le avventure di questo ragazzino. Anche qui è un racconto che anticipa un importante festival alla Lamezia Terme che si chiama Trame e che inizierà la settimana prossima. Ecco, questo per quanto riguarda la parte letteraria, diciamo quella parte letteraria che noi proponiamo ai nostri lettori proprio come lettura diretta, appunto, di racconti per una fruibilità assolutamente diretta, una godibilità assolutamente diretta. Poi c'è tutta un'altra parte letteraria invece che adesso non vi sto a snocciolare, ma comunque è fatta di recensioni, è fatta di riflessioni di classici della letteratura del passato. Però adesso vorrei passare a un altro argomento. Sì. Che è quello che riguarda le nostre due pagine centrali, perché il 19 a Roma ci sarà la terza edizione degli Stati Generali della Cultura, che noi organizziamo, abbiamo organizzati altri due, c'erano stati anche allora ospiti d'eccezione, il Presidente della Repubblica Napolitano, la senatrice a vita Cattaneo, ci sono due discorsi memorabili che potete anche trovare nel sito, tra l'altro molto belli, se volete riascoltare, e fanno un po' da trade union con questo terzo incontro dove ci saranno, diciamo, tra i tanti intervenuti, avremo modo di confrontarci direttamente con due ministri, il ministro Dario Franceschini dei Beni Culturali e Stefania Giannini del MIUR. Per confrontarci su che cosa? Ma intanto per fare il punto anche di una certa incisività che questa nostra battaglia che facciamo già da due anni ha avuto, insomma, dal fatto che alcune nostre idee sono penetrate e sono arrivate anche le decisioni del governo. E quindi Carandini, peraltro, ricorderete quando è diventato, Franceschini, quando è diventato ministro, ha detto che un po' scherzosamente che il suo ministero, i beni culturali, era il primo ministero economico. Ecco. Sì. E questo è molto significativo. E poi è anche passato ai fatti perché ha introdotto in un decreto di un paio di settimane fa l'art bonus. Ecco, allora noi abbiamo, prima per un lapsus ho anticipato Andrea Carandini. Certo, perché è presente anche lui, il presidente del FAI. Presidente del FAI, che fa una riflessione, e sarà anche lui presente appunto. E noi ne anticipiamo una riflessione in cui facciamo un po' un'analisi di questo art bonus, di questi sgravi fiscali su cui noi abbiamo tanto insistito, perché è la complementarietà tra pubblico e privato quella che ci sta a cuore, e rilancia anche facendo vedere alcune contraddizioni che Posso dire io, Armando, il titolo, parola chiave avete scelto, valorizzare il patrimonio ora o mai più, mi sembra abbastanza sufficientemente lapidario per capire quello di cui si sta parlando, no? Perché Certo, si tratta di tutelare, valorizzare, cioè appunto non solo tutelare ma anche valorizzare il patrimonio. L'art bonus è uno strumento che può essere molto efficace, e Carandini, da presidente del FAI, ci spiega anche alcuni esempi del FAI stesso, che appunto è un ente privato che però fa molto per il pubblico. Insomma, qui l'idea è riflettere appunto su quel valore, quel bene comune che è appunto il patrimonio artistico, e capire bene in che senso tutti possiamo contribuire appunto alla valorizzazione di questo bene comune, indipendentemente dal fatto che siamo privati oppure che sia il pubblico a intervenire direttamente. Naturalmente l'intervento pubblico è fondamentale, altrimenti non staremmo a parlare con i ministri, ma è importante anche ripristinare tutto quel clima di fiducia che è un po' mancato negli ultimi anni, fiducia proprio anche da parte di tutti, da parte delle imprese, da parte dei privati, appunto, di contribuire in tutto questo. Naturalmente le buone regole in questo sono fondamentali. Abbiamo altri due articoli, tra l'altro Guido Guerzoni, sì, che fa un excursus di tutto ciò che succede negli altri paesi da questo punto di vista, e Roberto Grossi, che è invece il presidente di Federculture, che anticipa un pochino proprio quello che è il loro rapporto annuale, appunto, Federculture, sulla cultura, sulla fruibilità della cultura, sui consumi culturali, che sapete che sono molto scesi negli ultimi anni proprio a causa della crisi, E insomma, questi sono tanti, tanti temi che appunto verranno affrontati allora, con l'approccio però appunto molto pratico e anche con l'urgenza dell'ora o mai più. In questo senso, diciamo, seguendo, ma non seguendo, perché è un'idea del Sole 24 Ore tua da sempre, quella di valorizzare dal punto di vista economico la cultura, quindi un'idea molto pragmatica da questo punto di vista, è importante che sia così. Ricordiamo allora l'appuntamento che sarà a Roma il 19 di giugno, gli Stati Generali della Cultura, anno terzo. Hai fatto bene, Armando, a ricordarcelo, e poi naturalmente avremo tempo in settimana per tornarci su. Intanto grazie. Grazie. E buona domenica. Grazie Armando Massalenti per essere stato con noi. Adesso invece noi facciamo una breve pausa, giornale radio, poi torniamo subito dopo con Si può fare. Numero verde 800 24 00 24, per intervenire in diretta tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizio, eccoci qua, ben ritrovati, 9:15 minuti, siamo in diretta, staremo insieme fino alle 11, 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta, potete cominciare sin da adesso a prenotare il vostro intervento per commentare quello che sentite. Abbiamo dato un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi i nostri approfondimenti, le buone notizie come ogni sabato e domenica mattina. Potete chiamarci anche per raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Anche oggi mettiamo in palio biglietti e il prezioso catalogo per le mostre a Torino dei Pre-Raffaelliti e a Roma di Andy Warhol. Ma soprattutto, visto che è domenica, giochiamo con il personaggio della settimana. Stiamo cercando un personaggio, vi dico subito, anticipiamo un pochino i tempi. Il primo indizio è che si trova in Brasile, dico solo questo. Adesso andiamo a conoscere un agricoltore particolare. Non sto aspettando niente, io apro all'attendente. Sei mesi di fatica dura per questa fioritura. Me l'hanno sequestrata ed ora sta in questura. Mazzo la pianti, aspetti che... Qualcuno lo chiama l'oro verde. Aumentano sempre di più gli orti legali di cannabis. Si produce canapa per fare dai mattoni, per la bioedilizia, a cose che si mangiano, alimenti, olio, addirittura cruscotti per le automobili. Ci si fa di tutto con la canapa. Noi vogliamo conoscere uno di questi agricoltori che ha deciso, non si sa bene quanto, diciamo, piegando le norme che lo consentano in Italia o meno, di produrre proprio cannabis sui suoi terreni. Parliamo di Antonino Chiaramonte, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dunque, lei nella vita non fa solo agricoltore, è anche assistente sociale, così? Sì, io principalmente sono assistente sociale, lavoro con gli anziani da tanti anni, ma mi dedico anche all'agricoltura in una mia piccola azienda agricola. Siamo in provincia di Cosenza, a Mendicino. Sì, esattamente. E lei è anche referente per un'associazione che si chiama Assocanapa, sì. Proprio in Calabria. Sì, sì, Assocanapa è l'agenzia di riferimento, l'associazione nazionale di riferimento, che su come dire, autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole a commercializzare, sì, e a promuovere la coltivazione della canapa in Italia. Ecco, perché è vero che la canapa non si può produrre se non, cioè non si può coltivare, quindi produrre poi come materia prima, se non un tipo particolare con basso contenuto di THC, è questo? Sì. Noi associati di Assocanapa, sì, possiamo appunto seminare una tipologia di seme. Quest'anno abbiamo scelto la tipologia francese, che è una delle piante migliori per farne fibra, perché viene altissima, ed è appunto un seme certificato con un THC inferiore allo 0,2%, che è quello che la legge italiana consente appunto di coltivare. Però io ho visto le foto, non è che la pianta sia molto diversa dalla classica pianta di marijuana, cioè è proprio quella. No, la pianta è quella. È quella. Si vede lei ritratto tranquillo nel campo con queste belle piante alte più di un metro forse. Io quanto... non so quale foto lei ha sotto mano, però le foto sono tante, perché i campi sono anche tanti, nel senso che noi in provincia di Cosenza abbiamo seminato oltre 30 ettari di canapa. Abbiamo cercato anche di seminarli in posti diversi, in periodi diversi, per vedere un po' come risponde al tipo di terreno, al tipo di coltivazione, perché si può irrigare, può anche non essere irrigata. Però naturalmente bisogna anche scegliere il periodo giusto per seminare, Quest'anno la primavera è stata un po', ha fatto un po' le bitte, quindi non ha consentito a diversi di noi di poter seminare quando avremmo voluto. Senta, perché appunto si diceva che si possono fare tante cose con la canapa, che c'è un mercato, lei produceva grano, adesso è passata alla canapa, però sappiamo anche che si può produrre anche la sostanza stupefacente. Come fate a, non lo so, a essere al di sopra di ogni sospetto da questo punto di vista? Ci sono dei controlli? Sì, assolutamente. La prassi prevede che appena seminata la canapa, dopo 15-20 giorni, inizia a germogliare. Appena vengono fuori i germogli, va fatta una comunicazione con una modulistica che si può scaricare dal sito di Assocanapa. Va fatta una comunicazione alla più vicina stazione delle autorità presenti, forestale, carabinieri, polizia. Sì. Ma è qualcuno è venuto a verificare qualcosa sul suo terreno? No, sul suo terreno non sono venuti a verificare. Sì. Io sono andato insieme al comandante di una stazione di un paese vicino a Cosenza, il paese di Montalto, siamo andati a vedere il campo, anche perché il comandante dice andiamo insieme così vediamo dov'è, anche i nostri uomini sanno un po' dove si trovano i campi, anche per tenere un po' sotto controllo, perché magari qualche ragazzino che ha in mente di portarsi via una piantina, che non avrebbe senso, perché praticamente sarebbe come fumare paglia. Ma è così basso il concentrato da rendere, diciamo, inutile, quindi lei dice lo fa anche forse per sconsigliare i malintenzionati, perché in un'intervista leggevo che qualche furto ogni tanto, cioè qualche pianta mozzata se l'è ritrovata, insomma. Questa è una cosa che è successa a Piacenza, in altri campi, però i ragazzi di Piacenza, è un'azienda agricola bellissima a Lucagnano d'Arda, hanno pensato appunto di mettere un cartello: se volete una piantina ve la regaliamo. Anche proprio è un bel motivo, una bella occasione per diffondere la conoscenza e le informazioni su questa pianta, che purtroppo sono soltanto prevalentemente quelle in negativo, quelle tutte legate a questa pianta come droga, come devianza, quando invece qua stiamo parlando di una pianta straordinaria, una pianta che apre opportunità di lavoro. Ecco, questo è interessante. 800 24 00 24, tra l'altro, cari ascoltatori, amici agricoltori all'ascolto, sarei curioso di sapere che cosa ne pensano anche i suoi colleghi che producono altro della sua scelta, insomma, perché in effetti lei prima produceva del grano, adesso ha deciso di fare il grano con la canapa, nel senso che è molto più, rende molto di più. C'è un parametro ad ettaro? Devo dirle che non è questione di resa maggiore. Sì. Innanzitutto dobbiamo considerare un aspetto molto importante: l'agricoltura negli ultimi anni, insomma, è stata un po' bistrattata, le politiche comunitarie europee hanno messo veramente in ginocchio chi coltivava grano, chi coltivava altro genere di cereali, perché arriva dall'estero e quindi qua viene pagato giusto per mortificare l'agricoltore, in buona sostanza. La sostituzione del grano, di altre piante con la canapa, non è una cosa che può essere, come dire, costante e continua, perché la canapa è un'ottima pianta, ma da integrare nel ciclo produttivo dei terreni, nel senso che un anno metterai la canapa, un anno metterai anche, non so, il grano, il fieno, i foraggi per gli animali o le piante da orto, a seconda del tipo di terreno che ognuno si ritrova. Ed è una pianta che però ha un livello di rischio bassissimo, nel senso che, supponiamo, non so se lei è presente, il fieno che si trova sui campi, già tagliato, magari imballato, ho un campo di grano, se viene un temporale, un bel temporale di 2-3 ore, addio raccolto, mentre la canapa questo problema non ce l'ha, né quando è verde, tantomeno quando è già tagliata, asciutta sul campo, perché consideri che una volta imballata e portata allo stabilimento, la prima fase della lavorazione prevede proprio che sia dentro l'acqua a macerare per diversi giorni. Però uno potrebbe dire, va bene, resiste meglio del grano, ma che ci facciamo con tutta questa canapa? Perché il grano, si sa, ci si fa la farina e si mangia. Però sembra di capire che la canapa sta vivendo una seconda giovinezza, cioè edilizia fatta con la canapa. Sì, assolutamente. Lei consideri che con la canapa, con la fibra lavorata naturalmente, perché poi viene lavorata in diverse pezzature, viene frantumata e anche polverizzata. Con la parte polverizzata se ne possono fare gli stopper, i sacchetti per la spesa. Non so se lei è presente, quelli fatti col mais, che sono un po' mollicci, si rompono. Con la canapa invece la molecola viene molto più resistente. Io ho assistito a questo genere di studi all'Università di Cosenza, dove il novembre scorso, il 29 novembre, abbiamo fatto un convegno bellissimo, dove abbiamo coinvolto tanti agricoltori, e c'era, diciamo, tutta la direzione nazionale di Assocanapa, e c'era lì il professore Chidichino, che dirige il Dipartimento di Chimica, che spiegava tutto quello che si può fare con la molecola della canapa, con la parte che contiene la cellulosa, con la parte che contiene la fibra per, come dire, per farne il tessile, e con tutte le varie componenti dello stelo della canapa da fibra, perché in questo caso non viene usata l'infiorescenza, anzi, diciamo, che non serve proprio. Quello che serve è soltanto lo stelo e tutte le parti di cui è fatto. Che poi la canapa, se la ricorderanno quelli che hanno una certa età forse, ma era quella che usava l'idraulico quando arrivava a casa e girava intorno al tubo, no? Adesso si usa, forse si chiama teflon, non lo so. Se la ricorderanno un po' tutti, perché era quella di cui di canapa erano fatte le vele delle caravelle di Cristoforo Colombo, erano fatte le funghe, tanto per dirne una. Senta, ma c'è un altro capitolo importante che riguarda, per esempio, si sta aprendo proprio in questi mesi in Italia, forse quest'anno mai come prima nel passato, il tema dell'uso della cannabis a scopo terapeutico, che è stato autorizzato in alcune regioni, credo 6 o 7, la Puglia, la Toscana, il Veneto ed altre, l'Abruzzo credo, e però il problema è che bisogna importarla questa cannabis dall'estero, perché in Italia appunto non si può produrre questo tipo di cannabis, che invece in Italia, l'unico posto dove insomma viene prodotta sono soltanto un centro dove si fa ricerca, dove comunque c'è anche l'esercito, che mi pare sia in Veneto, forse qualcosa del genere. Esatto. Ecco, ma voi di Assocanapa, cioè questa richiesta la fate, cioè dice fatecela produrre a noi in Italia, così evitiamo di importare dall'Olanda, che costa un sacco di soldi. Io sono dell'idea che sia un passo importante il fatto di diffondere tanto la coltivazione della canapa, per sfatare un po' questo mito in negativo di cui la canapa è vittima. Poi sono dell'idea che appunto se ormai è un dato certo che la cannabis è una straordinaria pianta con principi attivi terapeutici, non vedo perché, mi sembra veramente assurdo che questa sostanza debba essere importata, quando in Italia per clima e per terreno produrremo saremo un posto adattissimo a farlo. Senta, però ci dica la verità, una fumatina ogni tanto uno se la sarà fatta o no? Io ho un bellissimo rapporto con questa pianta, mi piace e sarei ben felice di tenerne anche una sul balcone, perché è bellissima come pianta e ha degli effetti che ognuno poi interpreta a modo suo. C'è chi utilizza la cannabis come per finalità, come dire, spirituali, intime, personali. Cioè, in che senso spirituali? È una pianta che insomma ha degli effetti che io non definirei stupefacenti, ha degli effetti mio rilassanti, rilassa la muscolatura. Sì, e poi il motivo per cui viene utilizzata proprio per chi ha un certo tipo di malattie, certo, certo. Ma quindi lei una fumatina ogni tanto se la fa? A me non dispiace, a me non dispiace. Non è, però tanto dispiace, non è proibito, insomma, questo. No, non è proibito. Oltretutto, anche qua in Italia, il ministro Lorenzin ha cercato un po' di naturalmente lei è stata una parte politica che è contraria a tutto questo, però oggettivamente non tutta la politica italiana sta prendendo atto del fatto che bisogna fare qualcosa per aiutare le persone che hanno problemi di salute e quindi necessitano di un approccio agevolato verso questa pianta. E anche il discorso ludico è un po' eccessivo, cioè siamo cittadini europei, fino a che punto? La mia patente italiana va bene in Spagna, va bene in Portogallo, la mia tessera sanitaria va bene in Francia, va bene in Austria, però se si tratta di una canna, in Spagna non mi calcola nessuno, in Olanda è una cosa ormai che va tranquillamente da tempo, in Germania c'è un tot di quantitativo consentito, in Italia fino a qualche mese fa era un dramma assoluto, era un costo folle oltretutto per lo Stato, cioè fermare una persona e metterla in galera perché si trova con uno spinello in tasca, e poi la patente, poi la questura, poi la prefettura, cioè, parliamo di costi folli e vite rovinate per una cosa che, uscendo dall'Italia, cioè altre legislazioni hanno messo in un piano di una cosa normale, oltretutto è paradossale e anche un po' ipocrita, sì, ma avere una legislazione che vieta una pianta che non ha mai ucciso nessuno, e invece le nostre leggi consentono videopoker, alcol e sigarette a tutto spiano. Quindi insomma lei dice, anche un po' come rappresentante di Assocanapa, almeno lì in Calabria, una come dire, una mini liberalizzazione dell'utilizzo della cannabis associata alla possibilità di produrre la cannabis, quella col THC. Il lavoro delle forze dell'ordine, perché qua non stiamo parlando di droga. La cannabis in ogni caso non è una pianta che porta dipendenza, questo non lo dico io, sono dati di fatto, è una pianta che esiste. Gli utilizzi sono conosciuti da oltre 10.000 anni, lo sanno gli egiziani, ci hanno fatto le piramidi. Cioè, è veramente, io considero anacronistico. E anche però mi dica appunto una cosa, perché glielo chiedevo prima, ma lei diceva non è solo una questione economica, ma produrre un ettaro di canapa o un ettaro di grano, cos'è che rende di più? Ma il grano è sempre legato all'andamento del tempo. Dipende da quanto si riesce, diciamo, a ottimizzare. Sì, come costi siamo più o meno, sono coltivazioni che se va all'annata va bene, si possono lasciare da un minimo di 1.000, da un massimo di 1.500 euro. Ma poi lei questa canapa a chi la fornisce per lavorarla? Ci sono degli stabilimenti in Italia? Sì, gli stabilimenti attualmente sono due. Uno funzionante a Torino, a Carmagnola, che assorbe tutti i 500 ettari più o meno coltivati nel nord, tra Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia. Invece il 12 luglio, finalmente, sono felicissimo di annunciare questa cosa, Southend, ecco, che è una società legata ad Assocanapa, inaugurerà, perché è già pronto, lo stabilimento nuovo di Taranto, che assorbirà tutta la produzione del sud, tra Calabria, Puglia. Oh, e quanti posti di lavoro siamo riusciti a creare lì? Ma guardi, se consideri che in Puglia hanno aperto un cantiere, la regione è stata molto vicino a tutto questo, hanno aperto un cantiere dove si sta proprio dimostrando giorno per giorno che si possono fare case con la canapa. Ma non è tanto il fare case con la canapa, è un indotto impressionante quello che si può creare. Perché basta, non lo so, se abbiamo la fortuna di avere qualche politico lungimirante, cioè come si sono fatti gli incentivi per mettere i doppi vetri alle case per un discorso di coibentazioni, risparmio energetico, no? La canapa, dalla canapa si possono fare pannelli che possono sostituire tutte le coibentazioni velenosissime che noi ci ritroviamo in casa, il polistirolo e lo stiro, tutti questi prodotti, questi coibentanti. Perché è un isolante, è un buon isolante anche la canapa. È un fono assorbente, è un isolante meraviglioso e oltretutto poi ha una fibra fortissima che consente di fare tutto quello di cui accennavo anche lei prima, tipo i cruscotti delle macchine e cose di questo tipo. Straordinario, io la ringrazio e le auguro buon lavoro sul suo campo. Antonino Chiaromonte dalla Calabria, grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie. Da Mendicino, in particolare in Calabria, produttore, uno dei pochi in Italia di canapa, referente di Assocanapa per la Calabria. Hai sentito quante cose si possono fare, compreso insomma anche forse smettere di importare dall'Olanda la cannabis, quella ad alto contenuto, questo sì, di THC, che poi si utilizza in alcuni ospedali italiani per curare alcune malattie. Attualmente la importiamo pagandola cara dall'estero, invece in Italia la pianta, come hai sentito, cresce. Florida, 800 24 00 24, amici all'ascolto, se avete esperienze che riguardano il mondo della canapa, chiamateci, a tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. E buongiorno anche a Carlo Gabardini, ciao Carlo. Buongiorno, ciao Alessio, buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Tutti un po' con il fuso orario di Manaus. Esatto, stamattina infatti ci siamo svegliati. Dovremmo avere un bonus, diciamo, quando gioca l'Italia, non si può dire anche agli ascoltatori che quando gioca l'Italia, soprattutto quando vince, poi si inizia un'oretta dopo. Un'ora e mezza dopo. Ci sarebbe stato bene oggi, ci sarebbe stato bene, ma dall'altra parte Volevo andare in piazza ieri a gioire, però insomma, poi pioveva, quindi era anche... Ci sarà stato qualcuno alle due di notte a gioire ieri? sera. Ma qualcuno ha notizie? Penso di sì, penso di sì. Fonderà sabato, sì. Cioè la maggior parte delle persone non come noi erano già fuori, svegliano. Esatto, erano già fuori, gioivano per altro, diciamo. Per altro, per cosa? Cioè, no, erano così. Fuori per i fatti loro, sabato sera si stavano divertendo, erano in giro per la città e poi hanno detto: ah, ha vinto l'Italia. Beh, allora l'hai vista la partita? Certo che l'ho vista la partita. Assolutamente, mi sono anche emozionato perché con l'Italia comunque alla fine io mi emoziono sempre, devo sembrava una finale perché insomma questo 1-0, 1-1, 2-1 con l'Inghilterra, insomma, poteva, non dico essere una finale. Tu dici abbiamo già giocato la finale, possiamo tornare. Sei perfetto, sei veramente un tifoso ottimista, nel senso che sei contento. Dici abbiamo battuto l'Inghilterra, quell'anno che battemmo l'Inghilterra, giusto? E poi è finita lì. Senti, allora, il primo indizio per il personaggio della settimana l'ho dato io prima. Hai fatto molto bene. Ed è un personaggio che è in Brasile, adesso poi, cari ascoltatori, datevi Brasile, da fare, c'è un sacco di abitanti, insomma, in Brasile, non è che... Quindi vedete un po' voi, poi magari tra poco correggiamo la rotta. Esatto. Allora, si parla spesso di lavori e soprattutto di disoccupazione giovanile, che in Italia assume ormai dei dati ben oltre il preoccupante, e ho trovato questo studio del Canadian Scholarship Trust che si è immaginato insieme ad alcuni esperti di futuro come sarà il mondo del 2030, soprattutto dal punto di vista del mondo del lavoro. Il 2030. E quindi vi dico un paio di lavori per i quali prepararsi, nel senso che se no uno oggi studia, visto che abbiamo molto tempo per studiare, perché in questo paese si inizia a lavorare intorno ai 48 anni, il 47% dei giovani non trova da lavorare, quindi diciamo per che cosa bisogna prepararsi per essere pronti per il 2030. Allora, fra i lavori scelti, diciamo, individuati, c'è il controllore dei droni. Che, visto che ci sono tutti questi droni che... Vanno di moda questi droni, ma perché? Sì, vanno di moda. Beh, io per esempio li ho usati su un set cinematografico dell'ultimo film che ho girato, perché ovviamente... Li guidavi tu? No, no. Io per niente, ma c'era assolutamente un esperto controllore di drone che è uno tra l'altro che oggi come oggi non per forza viene dal cinema, nel senso che è uno che è esperto di droni, poi sotto il drone viene attaccato alla telecamera, quindi... Ma cosa si deve studiare per essere controllore di droni? Questo non... Ingegneria, no, forse... Sì, già giocare con... Giocare con gli con le macchine telecomandate. Esatto, vabbè. Esattamente. Comunque è un lavoro interessante, perché ci sarà bisogno ovviamente qualcuno che li controlli questi droni, e ovviamente si dice anche, perché un addetto al controllo dei droni è quello anche che controlla attività sospette, problemi tecnici, incendi possibili, cioè non è semplicemente nel cinema ovviamente. Oltre al fatto che giustamente ci si chiede che anche dall'altra parte, quindi anche i ladri e i criminali avranno droni a disposizione. Quindi in qualche modo, diciamo, si può trovare lavoro sia da una parte sia dall'altra. Un altro lavoro è l'esperto di semplicità, ovvero persone in grado di guidare altre persone nelle complicazioni del domani, ovvero in particolare pare che ci dovranno esisteranno, secondo sempre il Canadian Scholarship Trust, persone specializzate nel risparmio di tempo, ovvero persone che ti cercheranno di trovare il modo per evitarti le chiamate inutili, troppe cartacce. Questo è straordinario. Infatti, ma ti ricordi e giorni che buttati noi... via. Io consiglio ovviamente mia mamma, che è perfetta per questo tipo di lavoro, che ti entra in camera e ti dice: non stai facendo niente, ed è esattamente, diciamo, ti sprona a fare qualunque cosa. Ma ti ricordi che avevamo avuto quel signore che faceva le code al posto degli altri alle poste? Esatto, sì, è ecco. Un po' quel fine, lui è un antesignano, allora, un esatto, po' di quelli che ti fanno risparmiare tempo. Sì, questo mi sembra più un tecnico, nel senso che fa sì. Diciamo, è più da file Excel questo che sì. Da code, da salumiere. Mi sembra di aver capito. Poi mi piace molto il telechirurgo, perché la chirurgia robotizzata oggi, già studiare medicina ci vuole un sacco di anni, poi la specialistica in chirurgia, poi bisogna oggi come oggi specializzarsi anche in telechirurgia, ovvero essere in grado di fare un'operazione tutta semplicemente con un robottino all'interno del corpo, e tra l'altro anche a distanza. E mi sembra perfetto che tu studi probabilmente 55 anni questa cosa, dopodiché sei talmente anziano che non è che puoi andare effettivamente spostarti, andare a fare l'operazione dall'altra parte, la fai tutta via computer con da casa, su Skype, esattamente, il telechirurgo. E l'ultimo, chiudo con il nostalgista, che in realtà mi sembra una bellissima, che è colui che, diciamo, un designer di interni specializzato nel riprodurre un'epoca precisa. Quindi tu dici: mi piacerebbe avere qua un salotto anni 50, oppure una camera da letto stile impero, una cucina anni 90. Devo dire che in realtà esiste già, si chiama scenografo, è semplicemente che qua gli hanno dato un nuovo nome, ovvero il nostalgista. Perché poi uno magari viene a noi, perché mentre al cinema uno vede un film ambientato nel Medioevo, va benissimo, ambientare la casa nel Medioevo, se poi ti viene a noi sono problemi. Ma sai quanti ne ho visti io, sentiti, che gli piace il Medioevo, per esempio? E come? In casa? Cioè, sì, vorrebbero vivere con queste ambientazioni, quindi è proprio vero che ci ma vuole. Frequenti gente strana? Un po' sì. Ma il Medioevo sì, io non l'ho mai sentito, anche perché poi il Medioevo uno è dice, difficile. Se hai un designer di interni ti dice qua facciamo una bella caverna, cioè che cosa... Qua una bella ghigliottina. Esatto. Va bene, belli questi consigli. Non voglio sapere la fonte di questa cosa che tu hai detto di sfuggita, ma preferisco non sapere. Il nostalgista, il guidatore di droni. No, però... no, ma ci sono c'è? C'è? Sì, sì, ci sono è diversi studio... e questo, no, questo qui era un articolo dell'Huffington Post, se non ricordo male. Era dell'inchiesta, chiedo scusa, sì? Non dell'Huffington Post. Ma comunque è uno studio preciso di cui hanno parlato molti altri giornali, perché è il Canadian Scholarship Trust, che quindi è cosa vorrà dire? Avendo una parola inglese è sicuramente una cosa di importante, qualità. Importante. Esatto. Ascoltatori, cominciamo a vedere un po' se ci avviciniamo anche al personaggio, per esempio, della settimana e altro. Antonio da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io penso che sia Balotelli, una cosa molto originale. Vabbè, è giusto, vabbè, si certo, inizia così. Della settimana, la notizia non mancherebbe, l'Italia ai mondiali, Balotelli che ha segnato pure ieri sera. È il gol la notizia? Chi lo sa, Balotelli? La notizia penso che sia il fatto che con un tweet abbia... Giusto. ...chiedere alla propria fidanzata di sposare. Ha twittato l'anello di fidanzamento, cioè di richiesta di matrimonio. Infatti volevo sapere a quale notizia si riferisse. Perché insomma Balotelli... regala un sacco di notizie. Mi dispiace dire che non è Balotelli, non era lui. Quindi grazie Antonio. Però confermiamo che è in Brasile, prima che qualcuno si agiti, giustamente, visto che il nostro indizio è in Brasile. E ci siamo giocati, insomma, un bel personaggio sicuramente dal Brasile. Ma ce n'è tanti però, insomma. Sì. Sono tutti là. In questo momento ce ne sono tanti, concentrati da quelle parti. Fernando da Viterbo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ho inteso adesso l'agricoltore che parlava della canapa. Certo, sì. Allora io mi ricordo da bambino che io sono di Montefascone, che si coltivava tranquillamente la canapa, poi venivano fatti dei fasci che venivano messi a marcire nel lago di Bolsena. A marcire, perché la canapa deve stare nell'acqua, vero? Sì, a marcire. Poi quando era marcita veniva tirata a secco e venivano degli artigiani che con un trespolo e una specie di mazzuolo battevano la canapa per estrarre la fibra. E che si faceva con la... A parte che mi voglio immaginare nei pressi del lago di Bolsena chi faceva il bagno da quelle parti, non lo so, cosa poteva succedere, no? Niente. Si faceva non in periodo... Non era il periodo estivo. Ma di che anni stiamo parlando? Bravo, che anni erano? Di che anni stiamo parlando, Fernando? Stiamo parlando negli anni, che posso dire, 50... Certo. 51, ma senti che memoria storica bellissima questa di Fernando, complimenti. Ma cosa ci si faceva poi con la canapa? Con le tele? Canapa veniva, a parte che con gli steli della cosa i duri venivano, i contadini li bagnavano nello zolfo e ci facevano i zolfarelli per accendere il fuoco. Tipo i fiammiferi in sostanza, sì? Ecco, sì. Poi con la canapa c'erano delle febbre che erano più grandi, quelle più grandi ci facevano addirittura i sacchi per il grano, perché veniva finata e ci facevano i sacchi per il grano o per le bisacce da mettere sui basti degli asini per trasportare le masserizie. Poi invece con la canapa fine ci venivano fatti delle lenzuola di canapa che erano freschissime l'estate, una cosa meravigliosa. Bene, delle lenzuola freschissime. Sì, tipo lino per intendersi. Tipo lino. Un po' più ruvido forse, perché la canapa c'era questo, c'era la filatura della canapa, questo venivano filati dai telai delle persone nelle case addirittura. Certo, perché allora c'era l'artigianato in casa. Venivano fatte queste lenzuola con la canapa, cioè la filatura più fine ci venivano fatte le lenzuola. Con la canapa invece più spessa venivano fatti i sacchi di grano, venivano fatti... Insomma, lei, Fernando, ci conferma che questa produzione della canapa potrebbe riportarci a un'epoca, ma insomma è qualcosa di positivo. Non capisco perché adesso si debba fare tutto questa trafila per la canapa. Ha ragione, infatti è così, speriamo che invece sia sempre meno un problema. No, per una ragione semplice, perché poi è scomparsa, noi non ho visto più la canapa che ci venivano fatte delle tele meravigliose. È la questione, diciamo, della paura che venga usata semplicemente a scopo tossico, è questo, ed è un po' triste, nel senso che ci sono tante altre cose, sì, sostanze, voglio dire. Si vede che allora non è stata scoperta allora la marijuana. Chi lo sa, questo bisognerebbe, lei non ha memoria. Già la si fumava, però, diciamo, prima di Bob Marley la conoscevamo meno. Che io ne sappia, non la fumavano minimamente. Ma io perché ricordo, probabilmente, sa Fernando, probabilmente, ricordo, sì, probabilmente era quella, come si dice, a basso contenuto, e quindi sostanzialmente non aveva, non dava grande soddisfazione. Va bene. Grazie Fernando, la Viterbo, bellissima questa telefonata. Molto. Poi mi è piaciuto anche i fasci di canapa, che mi sembra quasi un po' un ossimoro, diciamo, tra la politica e la marijuana, mi sembra molto bello, i fasci di canapa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, riprendiamo con Pierluigi che ci chiama invece da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono in linea, sbaglio, sì. Volevo dare una piccola raddrizzata al timone del suo ottimo servizio. Sì. L'abbiamo lì da capo ribanalizzato. Si è riparlato ancora della canapa come produttrice di tetraidrocannabitolo. È una produzione marginale, la stragrande maggioranza, anzi il 999 per 1000 di canapa, è fatta per ben altro, e è una cosa fondamentale. L'Italia è stata leader europea, a quel tempo il mondo non c'era, no? Se lei legge il Mulino del Po, l'Italia produceva la canapa migliore del mondo. Ecco, ma ci dica lei tutte queste... Lei, per esempio, si occupa di questo? Io sono un medico. Un medico. Però, se chiunque abbia un minimo di cultura storica e ha letto qualcosina, per esempio, lei si legge il Mulino del Po e vede quanto era importante la canapa del Ferrarese. E poi c'è tutto l'aspetto bioindustriale. Vale a dire, la canapa è sparita dalla produzione quando sono comparse le prime fibre tessili. Ma guardi, ma noi è proprio da questo che siamo partiti stamattina. No, veramente, cioè, volevo dire, allora, avete fatto un bellissimo servizio. Prima di tutto avete consultato una persona che si è dimostrata molto competente e molto attiva. Grazie. Il signore Calabrese. Sì. Ecco, quello che mi spiace è che a un certo punto vi siate un po' formalizzati sul spinello sì, spinello no. Ben altro è il problema. Noi abbiamo ben altro, però ci dica... Milioni di ettari di terreni marginali, ideali per piantare canapa. È vero, ma infatti noi questo auspichiamo che a Socanapa riesca a tirare dentro il governo su questo, perché ci vogliono le autorizzazioni, il Ministero dell'Agricoltura non è semplice, bisognerebbe un po' semplificarla questa cosa, visto che è una produzione che, diciamo, a rotazione nei campi, come dice lei, anche quelli marginali magari, no? E può servire per fare tante cose utili che magari negli anni abbiamo sostituito con altre materie che sono addirittura peggiori di quello che invece si poteva ottenere con la canapa. Pierluigi, grazie. Che dire, fra poco aggiungiamo anche un indizio per il personaggio. Certo, assolutamente. Intanto ripetiamo che è in Brasile il nostro personaggio della settimana. Adesso invece è il momento delle nostre cartoline dalle periferie, il momento di Simone Saccucci. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io dico assistente sociale, come preferisci essere nella tua vita professionale definito, operatore sociale? Sì, va bene. Va bene, Simone. Per passione canta storie, ha fatto spettacoli di teatro canzone ovunque, nei negozi, nei circoli, all'estero, in Inghilterra, in una cava di marmo, e la rifarai anche il 22 giugno, questa volta con Henry De Luca. Oggi però, Simone, la tua cartolina di cosa ci parla? Oggi parliamo della tovaglia, quella che serve per apparecchiare. Secondo me dice molto anche della nostra vita. C'è chi per esempio mette quella che non si macchia, c'è chi non apparecchia, oppure mette le tovagliette, quelle singole, oppure oggi che è domenica per esempio cambierà tovaglia, perché secondo me dice veramente molto di noi, di come la pensiamo. Azzardo, secondo me è strumento di partecipazione, di cambiamento, esagero. Oggi andiamo a San Basilio, è un quartiere popolare di Roma, conosciuto più che altro purtroppo per un tasso altissimo di dispersione scolastica e per la criminalità. Un giorno ci vado e vedo qualcosa di diverso, non mi rendo conto subito di che cosa si tratta, poi l'occhio va dove deve andare e vedo che sui palazzi popolari ci sono dei murales giganteschi, grandissimi, colorati, proprio come devono essere i murales, bellissimi, e c'è cerco di scoprire chi li ha fatti e mi rendo conto che si tratta di un progetto e volevo parlarvene al volo stamattina. E questo progetto si chiama Samba, ha a che fare quindi con San Basilio, però è Samba, quindi c'è bisogno di qualcosa di ritmato, quasi come la musica. E vado a cercare il numero telefonico, e per fortuna lo trovo, del promotore di tutto questo progetto, che si chiama Simone Pallotta. E mi rendo sempre più conto, mentre me lo racconta, che si tratta di un qualcosa di organizzato, laboratori con le scuole, incontri con chi vive in quei palazzi, con i condomini di quei palazzi, si racconta degli artisti che potrebbero venire, se i condomini accettano, a dipingere le loro pareti, gli si fanno conoscere le opere di questi artisti e i condomini accettano questi artisti. E poi Simone mi dice che se c'è qualcosa però che lo ha colpito più di tutti durante il lavoro, quello è il cibo. E il fatto che tante donne del quartiere gli portavano da mangiare mentre lavoravano, il caffè con la panna spray sopra, ma prima di tutto la tovaglia. È come a dire che quando tu metti la tovaglia dici benvenuto, se scegli di metterla dici benvenuto. E quindi come a dire che a San Basilio hanno deciso di dire benvenuto ai colori e agli incontri, soprattutto per decidere i colori. E quindi così la tovaglia, secondo me, può essere strumento di partecipazione, ponte, strumento di cambiamento addirittura. Grazie Simone. Grazie Simone. Simone Saccucci, questa era la cartolina. A me viene la pelle d'oca ogni volta, e il francobollo questa volta è la ninna nanna del Buon Pastore. Bravo il buon pastore che riporta le pecore all'ovile. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma lei non mi guardava neanche. Ed io facevo finta di niente. Ingollavo peroni e iniziavo a Guardia 82, Bruno Risassi. Beh, ingollavo peroni. Abbiamo aspettato il momento di ingollavo peroni. Cioè. Bisogna entrare qua per forza. Questa era la canzone di Filippo Pezzella, il nostro ascoltatore. Il vostro Si può fare musica. Continuate a segnalarci le canzoni che vi danno la carica e che vi dicono che si può fare. Così poi alla fine facciamo la compilation. Andiamo in concerto, anzi, Alessio ed io. Sarà un momento terribile. Terrificante, potrebbe essere veramente il peggio del peggio. 800 24 00 24. Albertina ci chiama dalla provincia di Imperia. Buongiorno. Buongiorno. Stiamo cercando anche un personaggio della settimana, che dobbiamo dare un altro indizio. È in Brasile, aspettiamo un secondo e poi lo diamo. Albertina? Sì, sono qua. Lei su cosa voleva intervenire, però? Io volevo intervenire sulla canapa, perché quando ero bambina e andavo in vacanza dai miei nonni in Emilia, stiamo parlando anni 58-59, più o meno quell'epoca lì, tutte le estati partecipavo alla raccolta e alla lavorazione della canapa, che era un evento bellissimo, appunto veniva, a parte che la canapa era altissima e io potevo correrci in mezzo, poi veniva raccolta fatta. Ma anche perché lei era piccolina. Piccola. Eh sì, ero piccolina, ma i miei zii erano alti, quindi... Certo, quindi certo. Ma volevo dire che lei era giovanissima, in questo senso. Io ero 6, 7, forse 8 anni, adesso non mi ricordo con esattezza. Veniva fatta in fascine e poi messa, facevano come delle chiatte coperte di sassi nel macero davanti a casa, cioè le case avevano tutte una specie di laghetto che guarda, si chiamava è quasi macero. L'intervento fotocopia di quello di Fernando da Viterbo, che ha raccontato la stessa cosa, le fasce messe in fasce sott'acqua. Si batteva tutti insieme, e poi la cosa che io mi ricordo benissimo è che questa fili di canapa bianchissima venivano stesi su steloni su tutta l'aia e sembrava fosse nevicato. Per noi bambini era una cosa bellissima. Poi naturalmente veniva venduta, mia nonna tesseva le lenzuola e gli estrofinacci, ah, io però. ne ho ancora due del corredo di mio padre, e sono d'estate, sono una meraviglia, perché sono un po' grezzi e quindi col caldo di notte si ci sta benissimo. E poi cos'è successo? Cos'è successo? Come gliel'hanno spiegato che improvvisamente invece la canapa non si produceva più? Ma sai, io sono cresciuta, cioè ero ragazza negli anni 70, quindi so cosa serviva la canapa. Certo. Ma più che altro poi io non me lo sono posta, perché si faceva la coltivazione a rotazione, quindi un anno c'era la canapa, un anno c'era un'altra cosa. Quindi non è stato traumatico, non è che c'è stato un momento in cui si è detto adesso la canapa basta. No, assolutamente. Volevo anche precisare che dove stava mio nonno, Cento, provincia di Ferrara, è la città di Disraeli, che ha poi fatto come moltissimo l'Emilia con Londra, perché tutte le cime delle imbarcazioni inglesi venivano fatte con la canapa che era prodotta in Emilia. Ah, fantastico. Infatti lui era di origine ebraica e stava nel quartiere. Poi era andato in Inghilterra, era diventato primo ministro, se non erro. Ecco. Vabbè, elementi di non storia suo nonno, applicata suo alla nonno, canapa. Suo nonno è diventato primo ministro? No, pensavamo di avere uno scoop, era bello, diciamo, dalla canapa al primo ministro. Ma non era diventato primo ministro. Va bene, Albertina. Grazie mille. Grazie, bella storia. Poi è successo un po', forse qualche divieto, un po' tutti hanno cominciato a produrre altre cose che rendevano di più all'epoca. Poi i prezzi del grano, di altre cose, sono crollati grazie a tutto il mercato internazionale, i futures sulle materie prime, eccetera. Adesso si scopre che si torna a coltivare la canapa e può essere addirittura conveniente. Ma quindi, scusami, non è stata interrotta? Io non conosco esattamente, non è stata interrotta la produzione della canapa per il fatto che era anche una droga? No. Probabilmente sì, bisognava chiederlo a Antonino prima. Adesso ci mancano alcuni elementi di storia della canapa. Ero in motorino. Va bene, andiamo con Giorgio da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Do la risposta? Se vuole. Sta chiamando per il quiz. Sì. Ci dica. Allora, per me è Fanny la fidanzata di Balotelli. Ah. La notizia specifica è quella che è stata data prima, il fatto che lui abbia twittato il matrimonio. Perché poteva anche essere che lei ha tatuato il nome di Balotelli sul o braccio. Di un altro. No. Di sì, si è visto proprio un lungo testo, tra l'altro, se non ricordo male. Però non è lei, non è Fanny, eh. Giorgio, grazie comunque per aver giocato con noi. Vi ricordo che in palio mettiamo i biglietti, ma anche lo splendido catalogo per la mostra a Torino dei Pre-Raffaelliti e a Roma di Andy Warhol. A questo punto io ho un altro indizio. Un indizio che tra l'altro va assolutamente in accordo con le risposte che abbiamo già avuto. Però, diciamo, per restringere il campo, era in campo ieri sera. Ecco. Il nostro personaggio quindi diciamo, è in Brasile ed era in campo ieri sera. In Brasile ci sono diversi milioni di persone, adesso quelli che erano sul campo ieri sera non sono milioni. Anche perché ieri c'erano più di una partita, diciamo, non c'era solamente... ci stiamo avvicinando. Marta da Ravenna, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. A proposito della canapa, vi ho ascoltato la vostra trasmissione, io sono una mamma di 3 figli e nonna. E il mio dubbio a proposito di questa coltivazione, che si incentivi maggiormente la droga. Ci sono altri problemi molto molto più grandi nel mondo. Della droga? Della droga, sì, sono d'accordo. Della droga, appunto, e della canapa. Sì. Ci sono milioni di persone che muoiono di fame. Perché non incentivare la coltivazione di tutti i cereali e magari... Vabbè, questo è giusto, però non c'entra molto con la canapa, non è che sono cose in alternativa. No, e soprattutto tranquillizziamo intanto tutti, la canapa di cui stiamo parlando non è la canapa per fumare. Da fumare. La Calabria ha detto che si faceva le sue canne, quindi mi pare che fosse molto interessato proprio a quel tipo di canapa lì. Sì, ha detto anche quello. Al di là però della però battuta... Però ci fai mattoni con la canapa. È importante ricordare che la canapa è una materia prima incredibile con la quale si possono fare tantissime cose, e siccome c'è questo la questione, diciamo, della droga viene squalificata, non si possono più fare è questa la questione. Quindi non è che stiamo parlando di coltivare l'Italia Marta, lo spaccio. Stia tranquilla, non è questo. Grazie comunque a Marta. 800 24 00 24, un inizio l'abbiamo aggiunto, il personaggio della settimana che latita ancora. Che latita. che era in Brasile ed era in campo ieri sera. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Voglio la pace lungo le mie strade, eppure tra i miei genitori. E voglio vincere tutte le guerre, voglio sentire ancora più rumori. E voglio andare al numero uno della classifica dei cannonieri. Voglio allenare la nazionale italiana, voglio essere generale dei carabinieri. Non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai. Voglio di più, dice Giovanotti, ma forse vuole di più anche il Demanio, l'agenzia del Demanio, che ha deciso di non affidare ad un acquirente all'asta l'isola di Poveglia a Venezia. Evidentemente non bastavano i 513.000 euro perché l'assegnazione non è andata a buon fine. Sono felicissimi quelli di Poveglia per tutti. Ti ricordi, Carlo? Ma certo che mi ricordo, infatti non vedi che c'ho il sorriso, perché tu per pure te l'hai detto che avresti acquistato delle quote. Esatto, perché per una volta diciamo lo Stato non ha reputato, intanto non ha reputato semplicemente i soldi sufficienti, ma che progetto fare su quest'isola. Su quest'isola. E siccome noi abbiamo seguito già due volte, se non ricordo male, la prima proposta. Poi la proposta del comitato non venne accettata perché questa ci fu una proposta più alta, e adesso non è stata accettata nemmeno la proposta più alta perché non è sufficiente. È straordinario tutto questo. Giancarlo Chigi, presidente dell'associazione Poveglia per tutti, ben ritrovato. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Insomma, immagino che un po' di festa l'abbiate fatta quando avete saputo questa notizia. Una bicchierata in giro per Venezia con tutti gli amici che riuscivano ad arrivare quel pomeriggio. Sì, tra l'altro diciamo anche questa, ad onore del vero, che Luigi Brugnaro, che è quello che aveva diciamo vinto dal punto di vista economico l'asta, che aveva offerto un pochino più di voi, perché lui aveva messo 513.000, se non sbaglio? 513.000 euro. Voi eravate arrivati pure a una cifra ragguardevole di... Noi abbiamo raccolto 472.000 euro in 40 giorni di sottoscrizioni. Insomma, tra l'altro voglio dire complimenti, perché non era facile. Il Brugnaro però della situazione, vinta diciamo dopo la notizia dell'asta che era andata, diciamo che lui aveva offerto il prezzo più alto, quindi sembrava in pole position per acquisire i 99 anni di concessione dell'isola, aveva detto, aveva rassicurato: non voglio fare alberghi, non voglio fare speculazioni, quello che voi temevate. Già lì vi eravate, non dico quasi trovati d'accordo, ma insomma i cittadini di Poveglia per tutti erano già più tranquilli. Ma relativamente. Ho capito male io, sì. Relativamente, cioè i progetti monocratici con un colore solo per queste isole purtroppo sono falliti tutti. Noi abbiamo assistito a 4 fallimenti nelle isole che circondano Poveglia, e quindi ci siamo preoccupati soprattutto della vendita di un bene pubblico. A nostro parere non andava fatta, e per cui volevamo partecipare all'inizio proprio come pura provocazione, con un euro. A quest'asta. Invece poi la cosa è diventata più di una provocazione, perché eravate in pista, sì. È diventata una sollevazione generale, una partecipazione di un veneziano su 30. Se consideriamo la limitatezza della città d'acque, una famiglia, ogni famiglia allargata ha partecipato a questa sottoscrizione. Ah, questo è un bellissimo dato, una famiglia su 30, uno su 30. Esatto, uno per famiglia, diciamo. E adesso che succede, quindi? Adesso noi ovviamente non abbiamo chiuso questa fase, abbiamo fatto un grande applauso fin lo stesso giorno, il 13 maggio, quando fu annunciato che l'offerta più alta era 513.000 euro, proprio perché sapevamo che lo Stato ha speso 15 milioni di euro su quell'isola solo negli ultimi anni. 15 milioni di euro. Io avevo letto 22 solo per le rive. Ecco, sono tra la cifra oscilla tra queste due. Perfetto. Quella più credibile forse è la sua. E comunque venderla al 2% di quanto si era speso su quell'isola sarebbe stata una follia. Però sì. Mi dica una cosa, Chigi, poi ci spiega meglio quali progetti adesso ci sono secondo le sue informazioni, secondo quello che proponete voi per l'isola. Però questo adesso non mi ricordo più cosa volevo dire. Ci dica dei progetti che avete. Continui quello che stava dicendo, poi mi viene in mente la domanda che stavo per fare. Vada. Sì, allora, i nostri progetti, sì. Diciamo che siamo felicissimi di questa fase, nel senso che noi proprio questo volevamo ottenere, che non si vendesse un bene pubblico ad un prezzo irrisorio. Ora abbiamo iniziato una cosa doppia. Da un lato restituiamo le quote agli associati che la vogliono indietro, e quindi sta iniziando la campagna di restituzione, che è per noi anche molto difficile tecnicamente, immaginare 4.000 associati. Cioè dovete ridare i 20, 30 euro, quant'era la quota? Era 80 euro. 80 euro, perfetto. 19 di iscrizione. Ma perché, scusi, ma perché, vi ridate, sciogliete, vi... perché ridate indietro i soldi? Perché... No, questo per chiarezza, perché noi avevamo chiesto questi soldi per comprare l'isola, sì. Adesso invece puntiamo a gestirla. Per cui gli associati che vorranno ci aiuteranno nel primo anno di gestione e lasceranno lì la loro quota. Quelli che li vorranno indietro, perché li avranno indietro, li avranno indietro. Mi scusi, però Chigi, è una cosa, ma quindi cioè dalle vostre notizie adesso non ci saranno ulteriori aste, cioè... io volevo capire questo. Cioè il comune ha deciso di non dare l'isola a questo punto, di non venderla, ma di mantenerla? Il demanio. Sì, tratta del demanio, esattamente. No, noi puntiamo a che la dia in concessione e ci offriamo, e questa è la seconda notizia, ci offriamo per essere coloro i quali... I concessionari. Per la gestione. Esatto. Ho capito. No, mi è venuta in mente la domanda, Chigi, gliela faccio. La domanda è questa. Secondo lei, per la percezione che avete avuto voi, in questa decisione del demanio, ha pesato... la cifra offerta bassa, 513.000 euro, come diceva lei, il 2% degli investimenti fatti negli ultimi anni, oppure anche la mobilitazione che avete fatto voi? Secondo noi tutte e due le cose, perché da un lato quel 2,3% era veramente una cifra ridicola e probabilmente la presenza di un attore sociale come il nostro ha creato una sorta di moral suasion nei confronti di grossi investitori internazionali. Per cui si trattava di un'asta che non era andata neanche dal punto di vista tecnico a buon fine. Non si trattava precisamente di un'asta, ma di un invito pubblico ad offrire. Sì, sì, sì, sì, certo. Però, certo. Ma mi scusi, le posso chiedere una cosa? Sono lo stupido dei due. Però la cosa che mi incuriosisce è vero che il 2% sarebbe molto poco, ma l'operazione, il senso dell'operazione era: io te la do a molto poco, di modo che tu sia invogliato a prenderla. Anche perché io da oggi in poi non spendo più quei 22 milioni per mettere a posto le rive. Nel senso che uno, è vero che si prende un bene incredibile come un'intera isola pagandola pochissimo, ma dal giorno dopo la manutenzione delle rive tocca a lui, spetta a lui, è giusto questo? Perché se invece voi fate solo la gestione e lo Stato deve comunque metterci i suoi 20 milioni, e il famoso discorso della spending review viene a mancare. Non c'è purtroppo nessuna garanzia che poi questi investimenti vengano effettivamente fatti. No. Cioè, nei casi che elencavo prima, alcune prescrizioni pubbliche non sono state rispettate, cioè nel caso di vendita di altre isole non sono state rispettate, l'isola è diventata una specie di modo per mettere in un tesoretto alcuni propri. No, ma questo è chiarissimo ed è un peccato che sia andata così. Però quello che sto dicendo è che se voi la volete solo in gestione, per lo Stato rimane un costo incredibile, giusto? Per il demanio rimane il costo. Ma questo ovviamente non sarebbe successo neanche nel caso l'avessimo acquisita. Noi abbiamo elaborato con 400 associati un primo pre-progetto sull'isola che chiunque può andare a leggere su internet, e quello contiamo di trovare partner privati e collettivi per garantire l'uso della destinazione. No, no, ma siete ottimisti a questo punto? Come pensa che vada a finire? Per quello abbiamo festeggiato. Noi speriamo di averla in concessione direttamente dal MITA, cioè dal Ministero che ha demandato. Cioè, ma avete delle notizie di prima mano? Secondo me sì, perché la sento tranquillo. Ma io ero tranquillo anche nei giorni in cui sembrava l'avessero assegnata a Brugnaro. Lei la sa lunga? L'unica, esatto, io la so lunghissima, perché abbiamo 4.000 associati. Credo che è un bel patrimonio, sicuramente. Non si possa ignorare questo patrimonio umano e di progettazione. Per cui l'ottimismo è forse la caratteristica che ci ha segnato fin dall'inizio. Va bene, va bene. Forse ottimismo. Complimenti! Cioè, intanto per questa mobilitazione che avete creato, perché sicuramente il fatto che loro abbiano creato questa attenzione, l'associazione Poveglia per tutti, eccetera, io credo che abbia cambiato le carte in tavola, perché altrimenti quest'asta poteva benissimo andare a, penso anch'io, a finire assolutamente. Al Brugnaro, della situazione il quale probabilmente non aveva nessuna colpa in sé per sé, perché no, ha fatto un'offerta, no, ma soprattutto per accollarsi comunque poi anche la gestione di un'isola. Certo, cioè, va ricordato anche quello, perché sennò sì, sembra semplicemente un'operazione folle, è anche un'operazione dove dice io Stato non ho più soldi da spendere, sì, infatti la razza l'intervento di un privato, ed è ovvio il privato che ci deve guadagnare, cioè che ci guadagnerà sopra dei soldi, ma però intanto l'investimento è che deve garantire i lavori da fare su quest'isola, che sono di milioni e milioni. Ottimo, abbiamo Mario da Trento all'800 24 00 24. Mario? Pronto? Tocca a lei. Buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno, buona domenica. Grazie, altrettanto. Volevo parlare di cacà. Sì. E cosa voleva dire? Voleva dare la risposta. Sì, la risposta è cacà. Ah. E qual è la notizia legata a cacà? È perché è rimasto lì nel campo, sì, tra i tifosi. Sì, insomma, non giocava, ma era in tribuna, credo, a tifare per il Brasile. Però non era cacà, non era lui. Non grazie, era lui il nostro personaggio, grazie di aver chiamato. Diciamo che da un certo punto di vista, volendo, ci stiamo avvicinando. Abbiamo un'altra telefonata? Ce l'abbiamo? Non so chi sia, però ce l'abbiamo. Allora, l'ascoltatore in onda... Monica, tocca a lei. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Mi chiamo da Roma. Perfetto. Volevo dire che il personaggio è Buffon. Buffon. E qual è la notizia legata a Buffon? Beh, insomma, sì. Che ieri mi ha giocato perché è stato male. Si è fatto male. Esatto. E poi, bene, in campo, in panchina, per in campo. Certo, giustissimo. Possiamo dire, allora, non ha indovinato. No. Però per purtroppo no, ci spiace. Però secondo però me potrebbe vicina, aver Monica, aiutato molto altri ascoltatori. È perché vicina, diciamo, accolto un pezzo qualcosa di notizia, un pezzo di motivazione ci sta anche per il personaggio che abbiamo scelto noi. Grazie Monica. Comunque. Adesso invece è il momento, prima di andare in pausa, di parlarvi di questa iniziativa. Come sapete, ogni tanto lanciamo anche delle iniziative, in questo caso è un premio appena trascorso, sentite. Si è tenuta martedì 10 giugno a Palazzo Marino a Milano la serata di premiazione della 54esima edizione de Il Premio Lino, il premio giornalistico promosso da Birra Moretti. Tra i vincitori c'è Esther Castano, cronista di Libera Stampa L'Alto Milanese, per la cronaca e le inchieste sulle infiltrazioni dell''Ndrangheta in Lombardia. Io sono una giovane giornalista, una cronista dell'Interland di Milano, quella parte di provincia per troppo tempo lontano dai riflettori delle grandi testate. Ho iniziato in provincia di Milano a fare la giornalista, la cronista, occupandomi di cronaca locale, fin quando poi ad ottobre 2011 mi sono imbattuta in un comune che è Sedriano, in provincia di Milano, che poi appunto è stato sciolto per mafia, primo caso in Lombardia di comune sciolto per mafia. Il premio Lino è arrivato come una sorpresa non sperata. Il fatto di aver vinto un riconoscimento così importante, insomma, mi fa venire la pelle d'oca. Basta soltanto leggere i nomi di chi appunto è stato assegnatario di un premio così importante: Pierpaolo Pasolini, Oriana Fallaci, grandi insomma del giornalismo, della letteratura italiana. E per me, giovane cronista di provincia, io mi occupo di cronaca locale, è un qualcosa di estremamente, estremamente importante. Io durante la cerimonia di premiazione ho voluto dedicare questo premio a tutti quei cronisti giovani e meno giovani precari che come me, retribuiti 10 euro lordi ad articolo, fanno giornalismo d'inchiesta. Si può fare cronache da un paese migliore. Anche pagando non c'è una con questa in Italia si può, un inedito sarcastico dei Pooh, io non l'avevo mai sentita, almeno. Tu la conoscevi questa canzone, Carlo? No signore, mi autodenuncio. Per raccontare una cosa che ha a che fare con l'immagine dell'Italia nel mondo, perché sta per aprire ad Alba, nelle Langhe, in Piemonte, un centro culturale dedicato allo stile di vita italiano, e sin qua chissà quanti ce ne sono. Questo centro culturale però sarà finanziato da un magnate giapponese innamorato dell'Italia, convinto che investire sul Made in Italy, anche in Italia, facendo poi arrivare turismo dall'estero, sia una cosa che funziona anche dal punto di vista economico. Il magnate si chiama Muneaki Masuda. Ma non abbiamo in linea Muneaki Masuda. No, sarebbe stato troppo facile. Anche perché o troppo difficile. Che sta aprendo centri culturali in giro per tutto, sì, il mondo. Quanti, quindi, ne ha aperti? Parecchi. Ma, tipo, ho visto 2400. No, scusami, 1500. Cioè, 1500. Più che un magnate, è un franchising del centro culturale. Del centro culturale. Interessante. Ma una notizia così che ci ha incuriosito. Noi siamo andati ad Alba, abbiamo chiesto di partecipare al programma al sindaco della città, Maurizio Marello, per vedere se lui ne sa qualcosa di più. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Per tutto le chiediamo se questa notizia, tra l'altro pubblicata dal Sole 24 Ore online, a livello nazionale, almeno perché probabilmente a livello locale avrà già avuto altra diffusione di stampa, ce la conferma la notizia? Ma intanto ha avuto diffusione di stampa a livello nazionale, non ancora a livello locale. Ah, questo è interessante. Al contrario di quello che succede in genere. Le confermo che c'è un interesse di questo magnate che io ho avuto occasione di conoscere lo scorso anno quando ho fatto visita ad Alba, e quest'anno si è di nuovo recato da noi circa 10 giorni fa, e c'è questa intenzione. Ecco, poi al momento non sappiamo ancora bene dove e come si andrà a concretizzare, comunque è rimasto molto positivamente colpito dalla nostra città, dal nostro territorio, dagli aspetti culturali e non gastronomici, e quindi sembra intenzionato a fare un investimento. Allora io leggo sempre al Sole 24 Ore online che questo signore è a capo di una galassia, diciamo così, di società che con un fatturato di 200 miliardi di yen pari a 1,4 miliardi di euro, quindi non sono... E non puoi dirla così sta cifra, 1,4 miliardi di euro. Non sono bruscolini, sono tanti, insomma. Il 2013 è andato così tanto, un anno dove tutti sono andati malissimo. In crisi. Non ho capito bene quale sia il business del magnate, cioè, lei ne sa qualche cosa? Sì, anch'io sto cercando di capire, ho capito che... diciamo così, una parte di questi suoi interessi sono rivolti intanto alla cultura, ai libri, ma tiene assieme la cultura anche ai prodotti tipici, ai film, alla musica. Anche perché non credo che faccia 1,4 miliardi di euro con i libri, perché, oppure veramente, magari, perché c'è un problema dell'editoria che è in crisi. Certo. No, mi pare di aver capito, insomma, che c'è un insieme, un'offerta articolata, ecco. E quindi il signore punta a mobilitare anche il turismo, forse dal Giappone, in tutti questi paesi dove sta fondando questi centri culturali. In Italia, che ne sappia, è il primo che vuol fare? In Italia è il primo che vuol fare. Tra l'altro questo signore si occupa anche, diciamo così, di operazioni turistiche. Sì. Ad esempio, so che nella nostra città prossimamente arriveranno, proprio grazie a lui e tutta una serie di visitatori giapponesi. Peraltro devo dire che negli ultimi 2 anni noi abbiamo avuto un significativo incremento di turismo che arriva dal Sol Levante, ecco, quindi questo va ad innestarsi comunque su un flusso turistico che comincia ad essere interessante, ecco, da quei paesi. Beh, complimenti, intanto belle Langhe sono meravigliose, Alba è un po', non so se la capitale, c'è una capitale delle Langhe, sì, siete voi? La capitale delle Langhe è Alba sì. Noi siamo una settimana esatta dal verdetto, che speriamo sia positivo, che ci sarà in Catarara da parte dell'UNESCO, che dovrà dichiarare eventualmente le Langhe come patrimonio vitivinicolo dell'umanità. Ecco, certo. Tutte le Langhe? Come? Tutte le Langhe, sì, la zona delle Bello. Sì, senta, sì. Delle Langhe, in modo particolare il Barolo e il Barbaresco, ma diciamo la candidatura è una candidatura di territorio che riguarda tutto il nostro. La domanda è inevitabile, cioè lei se lo sarà chiesto anche lei, ma perché deve arrivare un magnate giapponese a investire sulla cultura e lo stile di vita italiano in Italia e non farlo un altro industriale italiano che dovrebbe conoscere forse anche meglio le potenzialità del nostro Made in Italy? Ma guardi, noi sarà una coincidenza, ma abbiamo un italiano che è di Alba, che è Oscar Farinetti, che sta investendo tutto il mondo sulla cultura italiana con Italy, su quella enogastronomica, ma anche più in generale sulla cultura. Sì. E avete anche un altro grande industriale dei più illuminati, che è Ferrero ad Alba. Sì, giusto. Anche essendo io quello di marmellata e Nutella, non potevo non parlare di Nutella parlando di Alba, ovviamente. Tra l'altro sono i 50 anni dalla nascita. Esatto, infatti volevo anche chiedere come avevate festeggiato, ma me lo tenevo per la fine, mi scusi, l'ho interrotta. Dopo, della Nutella parliamo dopo. Dicevo, sì? Quindi abbiamo già questo grande personaggio che è albese. Trovo interessante che ci possano essere investitori. C'è posto per tutti, lei dice, c'è posto per tutti. Sempre che non ce ne sono, sì. Insomma, se arrivano. Questo anche è vero, questo anche è vero. Anzi, direi che sono tutti ad Alba, siete un po' troppo fortunati. Posso dire? Sì, vabbè. È una terra fortunata. Sì, lasciateci qualcosa! A noi di Milano. Senta, ma questo centro culturale ha un'idea in come potrebbe essere organizzato, in cosa potrebbe consistere? No, non ho un'idea, anche perché non abbiamo ancora avuto contatti specifici, anche proprio sul sito, sulle modalità, diciamo, sugli spazi espositivi. Noi speriamo, insomma, che questa notizia si concretizzi e così si potrà avere dei dati. Che tipo è il Magnate, Masuka? Io l'ho incontrato una volta sola, una persona molto, molto semplice, insomma, molto a modo, mi ha dato un'ottima impressione. Con abiti fatti made in Italy, no? Beh, questo non lo ricordo. Non ci ha fatto caso. Ma cosa ha apprezzato di più di Alba? Il vino, ovviamente. Come? Cosa ha apprezzato di più? Cosa beveva? Barolo, Barbaresco? Penso proprio di sì. Beh, da noi si apprezza ovviamente la cucina, il vino, il tartufo, i paesaggi, ma da qualche tempo a questa parte anche gli aspetti storico-culturali. La Nutella, ne avete parlato? Beh sì, la Nutella va da sé. Ecco. Come è andato il compleanno, i 50 anni? È andato molto bene. Io speravo che la Ferrero mi invitasse per i 50 anni della Nutella, ne sarei stato molto contento. Ma perché ci devi dire questa cosa tua personale, caro? Cioè, non ti ha invitato? Anzi, perché ci fai brutta figura. Sempre di cose personali, caro. Vabbè, ma diciamolo, hai fatto il video, la marmellata alla Nutella, magari il sindaco di Alba, non so se l'era per lei, lo sapeva del video di Gabardini, no? No, non lo so. Vedi, lo dico io. Gli fai ascoltatori bene, che bene. Ci seguono magari lo sanno, perché ci seguono un po'. E quindi c'era un video, la marmellata alla Nutella, che aveva un sapore anche di, come dire, metaforico. Assolutamente. Di coming out, di... Non so, dillo tu, Gabardini, a questo punto. No, sindaco. Beh, perché sennò rimani disorientato, non capisci. Ah, chiedo scusa. No, è un video di qualche mese fa, dopo il mio coming out sulla Repubblica, che mi è stato chiesto un video nel quale, diciamo, spiego e tranquillizzo sui gusti i giovani, sessuali, sui gusti sessuali. Ma comunque, hai creato in balla la Nutella. La Ferrero la sa ha bene questa cosa, perché hanno fatto scritto. Un vaso... Per il primo aprile hanno fatto una campagna che era... Oggi marmellata, quindi era... Insomma, prima o poi ci sarà un contatto. Assolutamente, l'aspettiamo ad Alba allora. Molto volentieri. Senta, sindaco, niente, ci sentiamo più avanti quando questo progetto diventerà concreto, perché siamo curiosi. Grazie. E viva il Made in Italy, grazie al sindaco di Alba, buona giornata. Buona giornata. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Anna Maria da Verona, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Prego, tocca a lei. Io penso che sia la nuova compagna di Buffon. Il personaggio della settimana, secondo lei, il nuovo compagno di Buffon che al secolo risponde col nome di? Non me lo ricordo. Mi dispiace. Non me lo ricordo. Anche perché magari è uno scoop, magari è nuovissimo, esatto, noi non lo sappiamo. Ma io non lo so. Però se non ci dà un nome non possiamo neanche dirle se ha indovinato o se ha sbagliato. E soprattutto perché dovrebbe essere il personaggio, cioè qual è la notizia? Perché c'era Buffon, non ha giocato e probabilmente la sua compagna è andata per tirarlo su di morale. Come? Devo dire, era in Brasile, non era sul campo. No, niente allora. No, e quindi lei ha puntato tutto su quello. Sì. Ma non ha giocato, eccetera. No. Comunque no, non è questo il personaggio. E tanto secondo me non era neanche in Brasile la nuova compagna di Buffon. Ripeto che dipende, magari la signora sa delle cose che non sappiamo. Parliamo di questo? Pare che sia. Ma l'area d'amico conduce da dove? Da Milano o da Brasile? No, vabbè, a questo punto era giusto una curiosità. Va bene, signora, non era Anna Maria, grazie, non era questa la risposta esatta. Va bene, grazie per aver partecipato. Grazie mille. Proviamo con Bruna da Vicenza. Pronto? Pronto, Bruna, sì. Presente, secondo me è il fisioterapista che è stato portato fuori in barella. Eccola qua. Era il momento di suspense. Ci piace sempre, esatto, il momento degli applausi. Esatto. Ha indovinato, signora. Qual è la notizia? Tutto lì. È quella che è stato portato fuori in barella. Una roba mai successa. In effetti è vero, proprio una cosa pazzesca. Il fisioterapista che, esatto, si infortuna sulle soprattutto si infortuna molto probabilmente per le maledizioni che abbiamo mandato noi, perché va detto che il fisioterapista si è alzato a gioire per i gol dell'Inghilterra mentre tutta l'Italia stava urlando parole poco carine, molto probabilmente, sì, per aver preso un gol 38 esatto, secondi dopo aver segnato. E quindi diciamo gliel'abbiamo un po' mandata e si è rotto ha una caviglia messa male, che per un fisioterapista è perfetto, credo che se la sistemerà da solo. Grazie Bruna, lei vince i biglietti e il catalogo per la mostra a sua scelta, i Pre-Raffaelliti a Torino o Andy Warhol a Roma. E tra l'altro è bello anche avere dato insomma un pensiero a questo signore, appunto proprio nel momento nel quale ci siamo fregati tutti. Soffro moltissimo per la caviglia del fisioterapista, però gli abbiamo voluto così dedicare alla il prossima personaggio. Volta gioisci meno. Adesso è il momento di un aggiornamento di una storia che ci sta molto a cuore, il giro per le buone pratiche, rifiuti zero in Italia, zero waste. 3, it's a magic number. Yes it is, it's a magic number. Because 2 times 3 is 6, and 3 times 6 is 18, and the 18th letter in the alphabet is R. Yeah, we got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. E ritroviamo naturalmente Rossano Ercolini, maestro di Capannoli, nonché uomo ambientale dell'anno 2013, nonché presidente di Zero Waste Europa. Buongiorno Rossano. Buongiorno. Buongiorno. Nonché nostro mito personale. Sì, sì, sì, assolutamente, proprio in altissimo, quasi irraggiungibile. Io vorrei sentirlo tutti i giorni raccontare una storia, magari di un minuto, un rifiuto, un modo di riciclare, una buona pratica. Un minuto, un rifiuto è un bel titolo, volevo dire. Sarebbe un bel titolo, perché ne sa di storie assolutamente belle da raccontare. Un giro in Italia alla ricerca di buone pratiche, soprattutto da parte delle aziende, delle attività commerciali, quindi cerca di approfondire il tema dei rifiuti al di là di quello che possiamo fare ognuno di noi a casa nostra. Questa settimana dove siete andati, Rossano? Allora, abbiamo fatto la tappa romana, abbiamo dato la nomination, il premio all'Organizzazione Nazionale dell'Usato, che appunto è formata dai mercatini dell'usato, dai centri di riparazione e riuso. Sono 80.000 gli addetti che impiega questo settore. E adesso Danilo Boni, che è il vero pedalatore della situazione, sta puntando su Napoli, dove oggi nominerà l'Hotel Royal, un hotel di lusso che sta abolendo l'usa e getta all'interno del proprio... Questo è importante, perché chiunque è stato in un albergo sa che si butta via parecchia roba. Come fanno ad abolire l'usa e getta? Praticamente hanno sostituito tutto il cartaceo con l'informatizzazione, usano per l'acqua e anche per i detergenti e i sistemi di ricarica alla spina, anche personalizzati in camera, e ovviamente possono vantare alla fine dell'anno riduzioni significative che in termini percentuali magari possono apparire poco importanti, circa dell'1-2%, ma in peso e in valore assoluto, e poi anche in simbolo, anche andare in un albergo, clientela che prevede a tutto il mondo, e incontrare le buone pratiche dà una buona immagine alla città, ma diciamo diffonde il messaggio. A che punto siete del vostro giro, Rossano? Praticamente ci stiamo preparando all'ultima settimana, quella di fuoco sarà la 3 giorni di Capannoli, sarà il clou il 21 mattina, premieremo, avremo la presenza dei titolari, dei rappresentanti di queste aziende premiate, quindi sarà un bellissimo momento, e la domenica mattina, il giorno successivo, avremo l'incontro nazionale finale di Zero Waste Italia. Tu che sei, insomma, io lo dico sempre, da 20 anni, forse anche di più, in prima linea su questo piano dei rifiuti zero, all'inizio sembravate forse un gruppo di esaltati, invece adesso abbiamo scoperto che quello che dicevate tanti anni fa era la direzione giusta. Adesso stai facendo questo viaggio in Italia, ti senti, non voglio dire meno solo, ma rincuorato? Sei stato stupito tu stesso da qualcuno, da qualche azienda, da qualche buona pratica che non ti aspettavi? Hai detto: cavolo, stiamo veramente cambiando verso. per citare Renzi. Sì. Io che sono un sognatore, devo dire che, di aver visto delle realtà che voi umani che veramente ci hanno stupito, per esempio l'hotel Conca Park, aver fatto colazione con tutto il sistema delle cariche alla spina, niente usa e getta, la marmellatina che si spilla, il latte, il caffè, in fondo non rimane niente, è stata una cosa... Dici, ah, finalmente... E si può fare in imprese di grande livello, 250 camere, 50 addetti, il meglio o tra il meglio dell'eccellenza diciamo turistica nel nostro paese. Quindi poi se dice si può fare, noi siamo felici perché lo usiamo per il nostro promo, titolo. Esatto. Ci sentiamo però la settimana prossima, direi, credo, a questo punto. Sì, allora, per concludere io vi farò un riassunto, sì, di questo viaggio molto bello. Grazie, ottimo, grazie Rossano mille, Ercolini, grazie davvero. Zero Waste Europa. Grazie. E poi mettiamo tutto anche sulla pagina Facebook, naturalmente, gli appuntamenti. È il momento dei saluti. Sì, signore. E di ringraziare Andrea Piana, che ha scritto insieme a noi il programma, Giorgio De Luca, che adesso è impegnato anche sul Mondiali, quindi oggi non era con noi. Niccolò Rossoni in assistenza alla redazione quest'oggi, il nostro nuovo Scotti, il nostro nuovo assistente, poi Giorgio De Luca, l'ho già detto, basta, Carmelo Luciano in regia, giusto per consumare questi secondi, vuoi dire qualcosa? Ciao, voglio salutare, ciao, da Carlo Gabardini e Alessio Maurizia, sabato prossimo, ciao.